dirò alcune parole sul tessuto relazionale ed esperienza che sta alla base di questa serata. E poi farò alcune brevissime considerazioni sulla dimensione storico-temporale in cui si collocano gli eventi che stanno al centro del libro di Filippo. Per tessuto relazionale ed esperienza intendo come è accaduto che si siano aggrumate le persone, le pratiche, le attività che stasera presenteremo. Beh, Filippo lo conosciamo da diversi anni, mi pare di ricordare che fu Davide di Seregno a presentarci, e quindi quella costola di Milano Sud che si prolunga verso la Brianza, arriva fino a Tradate, una serie di rapporti forti che vanno avanti, ma no, c'era ancora prima, quando fu organizzata la mostra sugli anni affollati, le riviste militanti degli anni 70, poi questi rapporti sono continuati. Del rapporto con Filippo io tengo a ricordare un passaggio che per me è stato molto importante, al quale sono ancora molto affezionato, e cioè nel dicembre 2013, quando furono arrestati i quattro per l'attacco notturno a Chiomonte, tra cui Mattia, Filippo fu subito disponibile per fare una serata a sostegno di questi compagni, che fu organizzata in Mandragora, ricordi, dove si parlò della legislazione d'eccezione negli Stati Uniti e il suo transito da noi da settembre 2001, ma andando anche indietro nel tempo, e poi si è continuato sempre così, a partire un po' dall'attività di Filippo con la creatrice Nova Delphi di Roma, il fatto che lui ha portato in giro tanti libri di questo tipo, ha portato in giro anche tante cose prodotte qui, e questo libro in particolare lo si sarebbe dovuto presentare già lo scorso autunno, poi si fu bloccati dalla chiusura, avrebbe dovuto essere uno degli ultimi titoli presentati a ottobre. Lo presentiamo oggi rispetto alla serata che avevamo pensato allora. Si sono aggiunti altri pezzi, c'era l'esigenza di avere del sonoro, delle canzoni, mandiamo dei pezzi registrati, troviamo qualcuno, attraverso Flavio si è arrivati agli Scappati di Casa, con cui in realtà non avevamo mai avuto rapporti. Alcuni di loro mi sembra che non siano fino a stasera mai entrati neanche in questo posto, però c'è stata una pronta rispondenza dietro questo rapporto. Poi ci sono altre storie dentro quel tentativo di approccio critico alla situazione attuale, alla pandemia, i suoi vari lati. Lo stesso per i video che chiuderanno la serata, video girati e montati da Dan. Parecchio tempo addietro si era parlato di questo suo lavoro. Ai tempi lui era a New York e girava, riprendeva quello che avveniva con Occupy Street. Siccome il libro si chiude proprio con la partecipazione di Peter Seeger a Occupy, vediamo di fare uso di questi materiali, anche in questo caso disponibilità, montaggio molto, molto efficace. Ecco, è una situazione di questo tipo. Alla base, nelle cose che cerchiamo di fare qui, c'è sempre una rete, non quella di cui si parla tanto, ma una rete reale di rapporti, di contributi, di sollecitazioni, di occasioni anche, e continua a riprodursi questa dinamica, quando va bene, giusto appunto, virtuosa. Lo stesso accadrà all'inizio di luglio, faremo una serata su Franco Loi, poeta dialettale milanese, la faremo con dei napoletani, Parlando di questa cosa saltano fuori dei video girati da Claudio, di Franco Loi, quando fa un'esecuzione in ricordo di Maracagol, insomma è sempre così, ed è questo anche un po' non solo un motivo di efficacia, ma anche un motivo di gusto, perché accanto all'iniziativa, accanto alla produzione, accanto alla realizzazione, c'è sempre una, accanto e mischiate, c'è sempre una parte di vissuto, di proprio di relazione, quello che fai tu, quello che faccio io, come possono incrociarci, così via. Ecco, cose molto, molto semplici, se volete, però a noi le cose piace cercare di farle in questa maniera. Ecco, questo su come è nata questa serata e anche altre che si svolgono qui. Diciamo che avrei detto due parole sulla dimensione storico-temporale che è sottesa al libro che verrà presentato questa sera. Credo che la cosa più importante da mettere in risalto è che questa vicenda, che è collocata nel 49, in un momento di svolta importante nella realizzazione del fascismo americano, perché di questo si trattava in realtà, non è però qualche cosa che è consegnato a un passato storico di cui, se va bene, si può cercare di sapere qualche cosa, perché sia dal lato oggettivo che dal lato soggettivo delle pratiche, dentro delle forti discontinuità, delle forti cesure che segnano la storia politica degli Stati Uniti, sussistono anche forti elementi di continuità, di trasmissione tra le generazioni, di recupero. Anche ieri sera si è parlato di qualcosa di questo tipo. Ieri sera in fondo a Via Padova, alla testa di Crescenzago, c'è stata una serata, una puntata del Ferlinghetti Corner, no? una lettura di poesie di Ferlinghetti. Ecco, anche in quel caso non si trattava solo della Beat Generation, di questo movimento di giovani inquieti negli anni 50, perché si è arrivati a Kenneth Rexroth, il padre spirituale del Rinascimento di San Francisco, della Beat Generation, una figura che nella sua pratica, nella sua vita, oltre che nella sua scrittura, ha messo in chiaro che un filo forte lega i primi abolizionisti contro la schiavitù con le prime esperienze del socialismo negli Stati Uniti, con i primi movimenti anarchici, con il movimento comunista nascente e così via. E questa centralità di questa sua figura, di questa funzione di tramite tra le generazioni, a raccontarla e è stato un militante afroamericano che è stato in prima fila nella Floyd Rebellion dell'anno scorso. Proprio per parlare di Kenneth Rexroth abbiamo usato le parole che ci ha detto Idris Robinson. Quindi c'è un gioco continuo tra il passato e il presente e un'apertura sul futuro, che si tratta di giocare, ecco, è questo, che si tratta di riattualizzare, consapevoli degli effetti di lavamento, di distruzione che l'operare dello Stato e del capitale opera nei confronti dell'esperienza proletaria, ma in una partita che non è mai decisa una volta per tutte, perché le idee e le pratiche trovano mille rivoli per comunicarsi tra le generazioni. Ecco, questo è un po' al di là della storia appassionante che racconterà Filippo, è per me uno delle lezioni che si possono trarre da vicende come quelle narrate in questo libro, e che sono esse stesse all'interno della narrazione, perché appunto il libro si chiude con Peter Seeger che si porta dietro tutto il pubblico del concerto per raggiungere gli occupanti che stanno a diversi isolati di distanza. Ecco, io volevo dire queste poche parole, poi Filippo inizierà a raccontare, ci sarà un intervento musicale degli Scappati di Casa, poi di nuovo Filippo, poi ancora loro e poi si vedranno i video montati da Dan. Bon. Sì, tra l'altro per collegarmi a quello che dici tu, ci vengono in aiuto le canzoni popolari americane, perché, e lo sentirete anche, presumo, se il video contiene anche uno degli audio che ho sentito, quello con Tom Morello, ecco, ok, di Which Side Are You On? Cioè, ci sono delle canzoni popolari americane che si sono attualizzate nel tempo, hanno accompagnato gli scioperi dei minatori negli anni 30 del secolo scorso e oggi accompagnano Black Lives Matter piuttosto che appunto Occupy Wall Street, con vari artisti che riprendono ciclicamente queste canzoni, in particolare quella che sentirete poi nel video, ha un sacco di versioni, tra cui anche recentissime dei Dropkick Murphys, piuttosto che di Ani DiFranco, e la cosa continua, e ogni volta che succede qualcosa, anche tenendo conto del fatto che la storia degli Stati Uniti è un continuo tentativo di cancellare memoria storica, di lotte, eccetera, e di imporre la verità americana a stelle e strisce, sono proprio le canzoni spesso a fare da collegamento e a riportare alla luce cose che nuove generazioni magari hanno dimenticato. Comincio, allora non abbiamo provato nulla in realtà stasera, quindi andiamo molto liberamente. Siccome mi conosco, se notate che mi sto dilungando troppo, mi fate sto segno qua e io passo subito la palla a loro per una canzone per alleggerire. E facciamo anche... Sì, sì, no, se no potremmo anche fare che mi metto a cantare io a fare. Comunque vediamo, siamo aperti e disponibili a tutto. Allora, il libro si apre con il suono di un banjo che esce da una libreria. Siamo a Oklahoma City nel 1940 e la libreria, lo si capisce subito dai libri esposti in vetrina, è una libreria progressista. Ci sono John Reed e altri scrittori e giornalisti di sinistra dell'epoca. Il suono di un banjo arriva dal secondo piano, dove non ci sono i libri, ma c'è una sala con una serie di ritratti. Ci sono Marx, Engels, Lenin, Stalin e il segretario del Partito Comunista degli Stati Uniti del 1940, di quell'epoca, Earl Browder. Ci sono anche due giovani che stanno discutendo animatamente e ogni tanto strimpellando. Sono Woody Guthrie e Pete Seeger. Si erano conosciuti pochi mesi prima a una manifestazione per i migranti, in cui tra l'altro Woody Guthrie aveva presentato per la prima volta la sua canzone This Land Is Your Land, una delle sue più famose. E sono lì su richiesta della libraia che ha chiesto esplicitamente a Guthrie una canzone sulle donne sindacaliste, perché in effetti, vuoi per l'epoca, vuoi per l'abitudine, anche i movimenti progressisti erano molto maschilisti, ovviamente. C'erano dei ritardi in quel senso. Guthrie voleva presentare la sua versione di una storia di un linciaggio avvenuto pochi anni prima in Alabama di una sindacalista nera che era arrivata per supportare i piantatori di cotone in sciopero, schiavi di fatto, anche se non più legalmente, ma con paghe da fame, si erano finalmente messi in sciopero e per la prima volta da quasi 20 anni a quella parte il Partito Comunista era riuscito a inviare nel sud del paese dei funzionari che avevano resistito per più di una settimana, 10 giorni, che era il tempo minimo che ci mettevano quelli del clan a ammazzare i funzionari comunisti o comunque sindacalisti che arrivavano in zona. Il trucco era che stavolta li avevano mandati neri, prima li mandavano bianchi, e quindi un bianco che si metteva a interloquire con i neri veniva ovviamente beccato subito, vista l'epoca. non va molto meglio a questo sindacalista, nel senso che a un certo punto viene linciata, si salva però, e la storia del linciaggio viene raccontata da lei stessa poi in una testimonianza alla Commissione per le attività degli afroamericani. Da lì Guthrie riprende quasi letteralmente la testimonianza per fare una canzone, ma è Seeger che convince Guthrie a non marginalizzare la cosa, a non focalizzarsi su un singolo episodio, ma a fare una canzone più universale. E dalla discussione dei due viene fuori Union Mate, che è appunto un'altra delle canzoni simbolo ancora oggi cantate e conosciute in tutto il mondo. È una scusa anche per parlare nel capitolo di diverse Union Mates, in quel capitolo e in quelli successivi, come per esempio Ella May, che era una cantante sindacalista che nel 1929 va con una serie di altri sindacalisti e musicisti a manifestare la solidarietà ai lavoratori di una filanda in sciopero. Al ritorno i vigilantes della fabbrica tendono un agguato e lei viene uccisa con una fucilata, lasciando 5 figli orfani e appunto all'età di 29 anni. Le sue canzoni vengono poi riprese da Seeger e da altri e portate appunto a conoscenza di un pubblico più vasto. Nel capitolo successivo poi ci saranno Florence Rees e Aunt Molly Jackson, che sono due musiciste sindacaliste molto particolari, entrambe formatesi nella zona di Harlan County. Esiste un film su Harlan County, sulle lotte degli anni 70 dei minatori, perché è una cosa che si ripete ciclicamente. Loro avevano partecipato alle lotte degli anni 30 e Florence Rees in particolare era la moglie di uno dei sindacalisti organizzatori dello sciopero, ricercato dai vigilantes, che a un certo punto irrompono in casa di Florence, si mettono a spaccare tutto per farle confessare dove era il marito, e lei seduta per terra fra i mobili sfasciati e i dischi che le avevano rotto, l'unico lusso che si erano permessi erano dei dischi di jazz e di blues, glieli avevano rotti tutti quanti, di getto aveva scritto questa canzone che è appunto Which Side Are You On, che poi verrà ripresa anche a Occupy Wall Street. Molly Jackson era un personaggio molto particolare, veniva soprannominata la mamma con la pistola. Anche lei faceva delle canzoni quasi didascaliche, nel senso che raccontava per filo e per segno le lotte dei minatori e la vita terribile, anche le condizioni dei minatori negli anni 30, ma quando si trattava invece della sua vita in particolare diventava una contaballe incredibile, nel senso che raccontava versioni inverosimili, che so, lei aveva fatto l'infermiera, in varie versioni diceva che di aver fatto nascere a Harlan County dagli 80 ai 5.000 bambini, a seconda appunto delle versioni, e soprattutto sul nomignolo, sul soprannome che le avevano dato, la mamma con la pistola, raccontava innanzitutto che Pistol Packing Mama era una canzone esistente, famosa, che il cantante che la cantava avesse preso spunto da lei, cosa mai comunque verificata, e soprattutto le versioni cambiavano, da lei che entrava in uno spaccio alimentare e con pistola alla mano raccoglieva cibo gratuito per i minatori in sciopero, all'altra versione che io metto nel libro, che lei la faccio raccontare a Pete Seeger, che la intervista, perché Seeger collaborava con Alan Lomax alla ricerca appunto della memoria storica del paese attraverso canzoni e racconti, e in quella versione, che mi sembrava più carina da mettere, lei dice che praticamente nello scontro con un vigilante, di fronte all'invito del vigilante di se ci riusciva a infilargli la pistola nel di dietro, lei ha dice ho esaudito la sua richiesta, e quindi da quel momento mi hanno chiamato così. Sono appunto cantanti sindacaliste. C'è da dire che Florence Rees, l'autrice appunto di Which Side Are You On, negli anni 70, ormai anziana, torna a Harlan County per il nuovo sciopero che dopo 45 anni i minatori riescono stavolta finalmente, dopo 13 mesi di lotta, a vincere, e andrà a raccontare e a insegnare Which Side Are You On alle nuove generazioni, perché nel frattempo la sua canzone era diventata famosa nel mondo. L'unico posto al mondo dove non la conoscevano era proprio Harlan County. Questa è una cosa ciclica negli Stati Uniti, perché per esempio quando nel 2016 Donald Trump ha promesso tra le varie balle di ritornare al carbone, Harlan County ha votato al 92% per Trump nel 2016, quindi c'è una necessità ogni tanto di ricordare, anche per evitare queste cose. Beh, Trump poi ci ha pensato da solo nel non riattivare il carbone, a fare in modo che nel 2020 Harlan County tornasse a quantomeno a non votare per lui, ma insomma questa è la situazione degli Stati Uniti. E a questo punto io direi cominciate a scaldare le voci e le chitarre. Dobbiamo fare un attimo i volumi perché non siamo riusciti. Ci siamo. Io vado. È il 1963. Gli Stati Uniti sono in guerra contro il Vietnam e Bob Dylan scrive una canzone, una poesia, che parla dei diritti civili e degli orrori della guerra. Il brano è costruito su una serie di domande le cui risposte, come recita il titolo, volano nel vento. Blowing in the Wind è in effetti più di una canzone. È un simbolo, un manifesto degli ideali degli anni 60, un inno alla pace e alla fratellanza, e certamente una delle canzoni più importanti e significative dell'intera storia della musica popolare. Come nasce questa canzone? Bob Dylan arriva a New York nel gennaio del 61 da un paese di minatori e si fa subito notare nel circuito dei locali folk. Nell'aprile del 62 compone una canzone aggiungendo un testo alla melodia di una vecchia canzone di origine canadese intitolata No More Auction Block, riferendosi al luogo del mercato dove gli schiavi neri venivano battuti all'asta e che veniva cantata dopo la fine della schiavitù in Gran Bretagna nel 1833. La stessa sera Bob Dylan si esibisce al Village e presenta la nuova canzone, non riuscendo tra l'altro a leggere perfettamente il testo scritto a mano troppo frettolosamente e quindi inventandosi una parte del testo mentre canta. Il testo poi viene pubblicato a maggio sulla rivista Broadside, fondata da Pete Seeger e dedicata alla musica folk. Il successo però viene raggiunto solo quando il manager di Dylan, Grossman, fa ascoltare il pezzo a Peter, Paul e Mary, trio folk molto popolare all'epoca, e il gruppo entusiasta la incide, facendo raggiungere al singolo la seconda posizione in classifica negli Stati Uniti. Before you call him, how? Bene, andando allora un po' liberamente, salto momentaneamente una parte del libro su cui poi tornerò per raccontare brevemente dell'incontro appunto fra Pete Seeger e Bob Dylan. Dylan all'inizio era molto legato alle canzoni di Woody Guthrie, tant'è che appunto una delle sue prime canzoni era Song to Woody, dedicata appunto a Guthrie. E Seeger, anche perché Guthrie in quel periodo già cominciava a stare male, quindi non faceva più molti viaggi e concerti, Seeger invece si porta Bob Dylan negli Stati del Sud per le manifestazioni per iscrivere al voto i neri. Manifestazioni che ovviamente vengono represse nel sangue. Ci sono i Freedom Riders, quelli che partono con gli autobus. Se avete visto il film Mississippi Burning, avete un'idea di che cosa succedeva a quei volontari che andavano appunto nel sud per iscrivere alle liste elettorali i neri. E Seeger porta Dylan letteralmente a rischiare la pelle. La cosa va avanti per qualche anno, poi a un certo punto il sodalizio si rompe. Era proprio un sodalizio da maestro allievo, a quanto sembrava. I due andavano molto d'accordo e facevano molti concerti insieme, finché narra una leggenda che io non riporto nel libro perché è appunto una leggenda, non si sa se è la verità o se è una parte della verità. Al Newport Folk Festival Dylan fa la svolta elettrica, questo è vero, nel senso che si presenta con gli strumenti elettrificati e comincia a dare una versione delle sue canzoni appunto con la chitarra elettrica. Narra la leggenda che Seeger si incazza talmente che a un certo punto piglia un'accetta e vuole tagliare i cavi dell'elettricità. Per fortuna viene fermato, perché altrimenti la sua morte sarebbe avvenuta una trentina di anni prima. Ma Seeger stesso dice no, in realtà si era arrabbiato perché l'amplificazione dell'epoca con l'elettrificazione non andava bene, non si capivano i testi. Comunque sta di fatto che quella fu un po' la fine del sodalizio tra Pete Seeger e Bob Dylan. In effetti poi Dylan prende strade diverse, anche per esempio da Joan Baez, che rimane invece molto più legata al filone Guthrie, Seeger e di manifestazioni di protesta, mentre lui diventa il poeta menestrello un po', come dire, al di sopra, no, di tutto questo. Per tornare invece al racconto del libro, si parte quindi dal 1940, si arriva alla guerra, dove sia Seeger che Guthrie partono volontari, perché i comunisti avevano deciso, nel momento in cui Hitler ha invaso l'Unione Sovietica, di iscriversi in massa. Fino al giorno prima avevano detto no, non andiamo perché è una guerra imperialista, eccetera, eccetera. Poi una delle tante giravolte che poi porterà anche a togliere un po' di credibilità alla politica del Partito Comunista, molto legata alle necessità e alle esigenze dell'Unione Sovietica. Seeger aveva appena terminato di incidere un disco con delle canzoni antimilitariste che era nei negozi da pochi giorni. Quando arriva l'invasione dell'Unione Sovietica da parte di Hitler, il partito ordina addirittura il ritiro del disco dai negozi e manda Seeger e gli altri in studio di registrazione per una serie di canzoni invece che propugnano l'entrata in guerra di Roosevelt. E gli fanno anche fretta, dice no, adesso bisogna allearsi con Stalin. In effetti questo secondo disco è poco convinto, lo si sente dalla qualità anche dei brani e dei testi, ed è anche così prodromico all'uscita di Seeger dal Partito Comunista, che avverrà nel 1949, quando lui decide di rimanere un comunista con la C minuscola, come diceva lui. Woody Guthrie invece non si sa, francamente, cioè è sempre stato visto come un militante comunista, non si sa con certezza se abbia mai preso la tessera del partito, ma sicuramente è stato molto più ligio alla politica e anche alle giravolte del partito. Quindi anche nel momento in cui il partito ha deciso di appoggiare Roosevelt, lui ha fatto una serie di canzoni pro-Roosevelt, abbastanza stridenti con quelle che faceva prima. In ogni caso, i due tornano dalla guerra convinti che la vittoria sul fascismo serva anche negli Stati Uniti, se non a unificare la nazione, quantomeno a far sì che lo scontro politico sia tra avversari e non tra nemici da distruggere. Sappiamo bene che non è così, perché in realtà ancor prima che la guerra finisca, il vero nemico per gli Stati Uniti, una volta che Hitler ormai è stato depotenziato e una volta gettate le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, si guarda ormai all'Unione Sovietica. Quindi la repressione inizia innanzitutto con gli artisti. Nel 1947 iniziano le grandi purghe a Hollywood, i famosi sceneggiatori, registi, simpatizzanti comunisti che vengono messi sulla lista nera, gli attori e anche i musicisti cominciano pian piano a perdere i contratti e anche le possibilità di registrare i dischi. Quindi inizia un periodo difficile che soltanto in seguito poi si tramuterà nella famosa caccia alle streghe di McCarthy, di cui in genere si parla quando si ricorda quel periodo, che è in realtà successivo, è degli anni 50. Qui stiamo parlando della fine degli anni 40. E una delle date simbolo in cui si manifesta apertamente ormai questa coesione fra anticomunismo, razzismo e antisemitismo avviene a Peekskill, nello stato di New York. E appunto il libro è un seguire passo passo le vicende di Guthrie Seeger e di altri due personaggi che sono Howard Fast, lo scrittore famoso soprattutto come autore di Spartacus, da cui poi è stato tratto il film di Stanley Kubrick, e Paul Robeson, che dice poco probabilmente, ma all'epoca era un'autentica star, era un avvocato laureato in legge, era una stella della Lega Nazionale di Football Americano, era un attore di successo a Hollywood e un cantante acclamato nei musical a Broadway, che però aveva due piccoli difetti: era negro e comunista. Dico negro ovviamente con intento, come si diceva una volta, in senso spregiativo, no? Non aveva mai fatto mistero della sua solidarietà verso gli operai in sciopero, andava ai picchetti, andava ovunque, anche nelle tournée, non mancava mai di visitare le fabbriche, i minatori, fare concerti gratuiti, e soprattutto in Unione Sovietica poi negli anni 30 era rimasto entusiasta, almeno durante il primo viaggio, del progetto di rivoluzione socialista, che gli sembrava così aperto anche alle minoranze rispetto alla situazione di razzismo che lui viveva comunque, nonostante fosse un laureato, quindi è un attore affermato, negli Stati Uniti. E quindi quando si era trattato di fare le mobilitazioni per la guerra, nel periodo in cui il Partito Comunista appunto era ancora anti-interventista, lui aveva detto una frase che gli era valsa l'odio dei razzisti americani, dicendo: è escluso che i neri americani possano andare in guerra per una nazione che li tratta ancora oggi da schiavi, contro una nazione che invece li ha liberati nel giro di una generazione. Ovviamente gliel'hanno fatta pagare in tutti i modi, gli toglieranno poi il passaporto, finirà anche lui in prigione davanti alla commissione antiamericana, ma soprattutto questi personaggi si ritrovano nel 1949 a un concerto di raccolta fondi per una famiglia di neri che era stata accusata di aver ammazzato il padrone di casa bianco, il quale in realtà sì, era stato ammazzato, ma perché stava a sua volta picchiando violentemente una donna che non sottostava alle sue molestie sessuali, e i figli della donna avevano preso a bastonate l'uomo. Erano stati condannati a morte tutte e tre, la donna e i due figli, e quindi c'è questo concerto a Peekskill, nello stato di New York, per raccogliere fondi per la difesa legale. Quello che succederà al concerto ve lo racconto magari dopo un'altra canzone. La versione più nota di The House of the Rising Sun è sicuramente quella degli Animals nel 1964, ma la canzone ha radici antiche e il suo autore originario è sconosciuto. Secondo lo studioso folclorista Alan Lomax, curatore dell'Archive of American Folk Song, la melodia viene ripresa da una ballata tradizionale inglese di nome Matty Groves, risalente al XVI secolo, mentre il testo viene scritto due secoli dopo. Nel 1934 il giovane suonatore di banjo degli Appalachi Clarence, Tom Ashley, decide finalmente di inciderla in omaggio a quel vecchio motivetto che gli canticchiava sempre suo nonno. Da quel momento seguiranno numerose cover, tra cui Woody Guthrie, Josh White, Pete Seeger, Frankie Lane, John Baez, Miriam Makeba, Bob Dylan, che finisce per rischiare un'accusa di plagio. La versione più famosa è dunque degli Animals. La folk song tradizionale, nota anche come Rising Sun Blues, narra di una vita persa a New Orleans, spesso conclusa con l'invito ai figli di evitare lo stesso destino. Nella versione degli Animals, la narrazione della canzone viene trasposta dal punto di vista di una donna in un bordello a quello di un uomo con un padre giocatore d'azzardo ubriaco. And it's Tra le cover direi che possiamo ricordare, per chi ha l'età per ricordarsela, quella dei Dick Dick in Italia. Ma tu sai le canzoni vecchie, traditional, fa sì, ne so 500. E quindi le faceva tutte, una in maggiore, una in minore, reinventando i testi. E c'è una versione in maggiore di, che lui chiama New Orleans, che è potentissima, cioè non so, dopo la vorrei condividere. Sì, tra l'altro Led Belly era, vabbè, il mago della chitarra a 12 corde. E, sì. Sì, certo, ma c'era anche appunto una, quando poi è diventato famoso, una discutibilissima articolo su una rivista che diceva, sentite che musica che fa con le stesse mani che un giorno uccisero un uomo, no? gli avevano dato questa cosa qua. E tra l'altro appunto Led Belly, Sonny Terry e tanti altri musicisti dell'epoca erano ospiti regolari dell'Almanac House del Greenwich Village, dove appunto Guthrie, Seeger e altri musicisti avevano preso in affitto questa casa a tre piani che gli costava praticamente tutte le loro entrate mensili, per cui era praticamente vuota come casa, ma sempre aperta a jam sessions e a chiunque volesse fermarsi appunto passando da New York, e appunto questi musicisti erano fra gli ospiti regolari. Ritornando al racconto, appunto c'è questo concerto che viene organizzato in un prato a Peekskill. Peekskill era una località di villeggiatura vicino a New York, prevalentemente località di villeggiatura con un numero ridotto di abitanti che poi durante l'estate diventavano molti di più, e era anche vicino a una vecchia e storica colonia anarchica che nel frattempo non era più una colonia anarchica, era diventata un luogo di villeggiatura comunque per villeggianti progressisti. In ogni caso viene fatto questo concerto con Pete Seeger, Paul Robeson, appunto, che era famoso come cantante all'epoca per una canzone che è un classico anche della musica americana, che è Old Man River, che lui appunto interpretava sia su disco che nel film Showboat, che nei musical a Broadway, e di cui forniva in quei concerti una versione militante, nel senso che la storia di Old Man River è quella del nero che fa il portuale, il barcaiolo, un po' rassegnato, che dice ah, sono triste, ho tanta paura, eccetera. Nella versione militante che invece faceva ai concerti, la rovesciava dicendo ma io continuo a ridere invece che di piangere, continuerò a lottare fino alla morte, e mandava appunto in visibilio il pubblico, soprattutto di neri, che accorreva ad assistere ai suoi concerti. A presentare la serata viene chiamato Howard Fast, che è appunto questo scrittore comunista che all'epoca era proprio in vacanza da quelle parti e che quindi si presenta con un certo anticipo la prima sera del concerto, trovando ancora nessuno dei protagonisti, ma trovando invece una marea di razzisti, di Ku Klux Klan e di varie organizzazioni patriottiche, soprattutto dell'American Legion, che nella zona di New York aveva un po' inglobato il Klan, dandogli un senso meno apertamente o immediatamente razzista, ma di fatto mantenendo tutti i connotati non solo di razzismo ma anche di antisemitismo. si ritrova con i pochi ragazzi mandati dall'organizzazione per staccare i biglietti e dare i volantini a dover difendere il prato dall'attacco di questi razzisti, che ovviamente sono tutti energumeni grandi e grossi. Lui si ritrova con una quarantina di persone, la maggior parte giovani, non neanche ventenni, e riescono, decidono innanzitutto di fare un picchetto, riescono a resistere. È una storia americana, quindi una delle cose peculiari è che a un certo punto, dal punto di ristoro, prendono le casse di Coca-Cola e cominciano a usare le bottiglie di Coca-Cola contro, come clave contro i razzisti dell'American Legion. Riescono a resistere per ore, fino a quando non arriva la polizia, che ovviamente cosa fa? Manda via i razzisti e cerca di arrestare i difensori del luogo, accusandoli di violenza. E in ogni caso la cosa finisce così. Seeger e Robson non erano neppure riusciti ad arrivare perché le strade erano bloccate. Vengono raggiunti dalla notizia una volta tornati a casa. Seeger la racconta a Woody Guthrie, che, come dicevo prima, è un periodo già in cui la sua malattia stava prendendo il sopravvento, quindi non faceva più serate da un po' di tempo e neanche concerti. Però quando Seeger gli racconta questa cosa, Guthrie dice: no, non possiamo far passare questa cosa, dobbiamo assolutamente reagire. La settimana prossima ci ripresentiamo a Peekskill e questa volta il concerto si tirerà a tutti i costi. Succede appunto che la volta dopo i razzisti si ripresentano pensando di avere vita facile, di riuscire addirittura a invadere il campo prima ancora che arrivino i protagonisti del concerto, e si ritrovano invece una catena umana di 2500 operai che ha circondato il prato. Sono operai aderenti a 14 organizzazioni sindacali che Guthrie aveva mobilitato durante la settimana e che erano arrivati a Peekskill con i pullman nel corso della notte. Quindi ci sono gli attacchi, che però rimbalzano contro un servizio d'ordine che è abituato a ben altre cose, alle battaglie con la polizia, agli scontri a fuoco anche spesso con i vigilantes, quindi non hanno problemi a cacciare i razzisti, i quali molto vigliaccamente decidono però di vendicarsi una volta finito il concerto, aspettando le persone che tornano in macchina dal concerto, aspettandoli lungo le strade che riportano verso New York e verso gli altri luoghi, e cominciando a lanciare sassi, a tirare giù dalle macchine le persone, a pestarle a sangue, con la collaborazione anche della polizia, che cerca in particolare di beccare Paul Robson, il quale però si era presentato con un piccolo corteo di macchine e 15 guardie del corpo armate, e riescono in qualche modo a salvarsi, così come ci riesce Pete Seeger, che era arrivato però con la famiglia in una jeep aperta, e quindi si ritrova sotto un lancio fitto di sassi, e ci riesce anche Howard Fast, che però viene fatto oggetto anche di una fucilata a un certo punto che gli passa vicinissimo. Fast, che finirà poi in galera e completerà il romanzo Spartacus in galera. Pensate l'accusa gravissima, essersi rifiutato di rivelare i nomi dei finanziatori dell'orfanotrofio per i figli dei combattenti americani nella guerra civile spagnola, che era diventato un delitto anche quello, no? Per cui l'avevano messo 3 mesi in galera. Lì aveva completato il romanzo Spartacus, da cui poi verrà tratto il film, e lui stesso dirà che quel giorno di inizio settembre del 49 era la data di nascita del fascismo americano, in cui appunto si erano uniti antisemitismo, razzismo e anticomunismo. Ovviamente sappiamo che un processo storico non ha in genere una data precisa di nascita, è però vero che quella manifestazione fu un po' l'ultima resistenza che la sinistra riuscì a dare prima di essere travolta poi dal maccartismo, dalla Commissione per le attività antiamericane, che porterà 13 milioni di cittadini a essere accusati di essere comunisti, e si inizia appunto con gli attori, con delle cose assurde, per cui il semplice sospetto o la semplice gelosia verso un attore da parte di un collega porta addirittura a sospettare gente come Ronald Reagan, per esempio, di comunismo. No, e questo col senno di poi fa ridere, ma all'epoca tutti, tranne John Wayne, finiscono nel mirino appunto dell'attività. Lui no, perché già allora era un vero patriota americano, ma questa situazione che distruggerà la sinistra americana, tra linciaggi, arresti e le attività dell'FBI di Hoover, fino appunto alla rinascita negli anni 60 di una nuova sinistra, con le canzoni di cui parlavano anche gli amici scappati di casa, scusa, mi ricordo il tuo nome, e dove appunto con la nuova sinistra sarà una sinistra non più legata al vecchio partito comunista, i comunisti diventeranno veramente residuali, insisteranno a presentarsi alle elezioni, ci sono ancora, c'è il partito comunista, un po' più libero adesso, ma era talmente filosovietico e talmente infiltrato di agenti dell'FBI che anche fra di loro si salutavano ormai con sospetto a un certo punto, perché non sapevano se l'uno era agente o era un militante comunista. Da lì poi le varie fasi che ciclicamente ritornano, e con Pete Seeger, che io seguo appunto nel libro, seguo le vicende da Peekskill in poi, con la chiusura a Occupy Wall Street, quando lui ormai 92enne, con le dita tormentate dall'artrosi, la voce appannata, tiene uno dei suoi ultimi concerti a Manhattan, e alla fine invita gli spettatori appunto a seguirlo per raggiungere i ragazzi di Occupy Wall Street, che stanno tenendo una manifestazione a pochi isolati di distanza. E parte questo concerto al canto di We Shall Overcome, che è una vecchia canzone tradizionale che però proprio Seeger aveva ripreso e attualizzato. C'è, tra l'altro, ve lo consiglio se mai vi interessasse, un disco di Seeger degli anni 60 che si chiama proprio We Shall Overcome, è un concerto del 63, disco doppio, che è uno dei primi che lui può riprendere dopo essere stato riammesso nel circuito dei concerti dopo la fine della guerra fredda e del macartismo, e che vive proprio della tensione palpabile in quei giorni delle manifestazioni che si stavano tenendo al sud, nel sud, in Alabama, in Mississippi, negli altri stati del sud, con lui che appunto racconta delle nuove strofe che aveva imparato lui stesso nelle manifestazioni del sud e che aveva subito messo nella canzone We Shall Overcome, tra cui quella We Are Not Afraid, Non Abbiamo Paura Today, oggi, che appunto era cantata dai neri nelle manifestazioni del sud durante gli attacchi della polizia. Questo è grosso modo il libro, raccontato malissimo, però dovete pensare che anch'io ho alle spalle il lockdown e la pandemia, e era la prima sera in cui rimettevo il naso fuori di casa, quindi mi scuso per una certa farraginosità e difficoltà a trovare magari subito le parole. In ogni caso è un libro che si chiude appunto con questa manifestazione. In realtà poi la storia va avanti, perché subito dopo l'uscita del libro sono iniziate le manifestazioni di Black Lives Matter e di Antifa per l'uccisione di George Floyd e di altri neri, e soprattutto per le politiche apertamente provocatorie di Trump, con tra l'altro una manifestazione, quella del Campidoglio, dell'attacco al Campidoglio, che ricorda moltissimo il tentativo di linciaggio di Peekskill, con una differenza quindi di decenni, ma con il buon vecchio modo americano di risolvere le cose, che è quello del capio e del linciaggio, che stava clamorosamente per avvenire anche lì, e che comunque non distoglie 75 milioni di americani e un intero partito dal volersi tenere stretto Donald Trump come campione della destra e delle politiche liberiste americane anche per il futuro. Quindi si prevedono ulteriori puntate di resistenza e di lotta. E questo è più o meno quanto, quindi andate, scappate di casa con la vostra nuova canzone. Allora, l'ultimo pezzo in realtà è una canzone tratta dal nostro repertorio, ci colleghiamo un pochino al tema del razzismo, perché questo pezzo si intitola Freedom ed è nella colonna sonora di Django Unchained, un pezzo di Anthony Hamilton e Lina Boyton. Django Unchained è una rivisitazione del film italiano Django di Sergio Corbucci. E il film è ambientato nel sud schiavista e intollerante degli Stati Uniti, a 2 anni dallo scoppio della guerra civile, e il protagonista è proprio uno schiavo che lotta per conquistare la propria libertà. Io sto cercando la libertà e trovarla mi costa tutto quello che ho. Time, the sun's gonna shine on me nicely. tutti e grazie di venire. Grazie a voi, siete veramente bravi. Allora, abbiamo la bravissima Federica Tomasini, alla chitarra, la splendida Arianna Pisolito, all'altra chitarra, poi abbiamo il magnifico Daniele Tibara, alla chitarra elettrica, e poi abbiamo la strabiliante Rossella Canzi, al cajon, e anche gli Utaia, quindi se a qualcuno interessa lo strumento di liuteria, Rosso e liuteria, la trovate, il passo, nei batterie, pincetti alla voce. Nei pincetti. Va bene, discutiamo, ragioniamo prima di guardare il video. Se ci sono domande o considerazioni, altrimenti ve ne spiego. Grazie. Io faccio solo due considerazioni. La prima è che la congiuntura politica in cui si colloca la vicenda raccontata in questo libro non è un unicum nella storia degli Stati Uniti. Siamo in quella che è considerata la seconda Red Scare, la seconda paura rossa. La prima era stata subito dopo la prima guerra mondiale, la fine della prima guerra mondiale, con i raid di Palmer, del ministro della giustizia, contro l'attivismo IWW, il sindacalismo radicale che aveva contrastato l'unione sacra della guerra, e in quell'occasione fu distrutta l'intera struttura militante a livello nazionale con una serie di azioni repressive ex legge in buona parte, perché a ben vedere, come sempre, i motivi direttamente legali non sussistevano. Però studiando un po' queste vicende si viene a scoprire che in realtà le paure rosse non sono due, quindi la prima del 1920 e poi quella che sfocerà nel maccartismo, ma sono almeno quattro nella storia degli Stati Uniti. Quella legata al grande sciopero del 1877, al grande sciopero delle ferrovie, e quella del 98, nella vicenda che poi culminerà con l'esecuzione, le pene capitali per i fatti di Chicago. C'è chi dice che ne furono addirittura cinque. C'è un bel libro che racconta della violenza politica e il rapporto tra Stato e classe lungo l'intera storia degli Stati Uniti, che le documenta. Quindi questa ricorrenza è proprio un elemento centrale della storia statunitense. Così come questo episodio porta l'attenzione sul dato strutturale, sul razzismo sistemico che è a fondamento dell'intero organamento, dell'intera storia politico-istituzionale e sociale americana, e che le vicende dell'ultimo anno hanno incominciato a rimettere in discussione, ma è proprio un gravame che dal primo settler colonialism, il colonialismo dei primi coloni, si distende sull'intero arco storico di quel continente disgraziato da questo punto di vista, ma che in questo suo coprire l'intero corso incontra di volta in volta delle resistenze addirittura originarie, e nella riattualizzazione che i movimenti permettono vengono riscoperti questi capitoli oscuri, dimenticati, tralasciati nella storia sociale, o come Zinn la definisce, della storia del popolo americano. Quindi in quelli che sono i territori che oggi stanno sotto leggi degli Stati Uniti, sono tante, tra il 6 e 700, le esperienze di vita comunitaria, di integrazione tra servi a contratto bianchi scappati dal regime salariale, che era in realtà una versione per i bianchi del regime schiavista, neri scappati dalle piantagioni, indiani che si sottraevano alla presa, e una vicenda transatlantica come quella della pirateria. È un pezzo di storia importantissimo che dura più di 100 anni e che soltanto adesso nelle ricerche legate alla riapertura della questione americana, che incominciano negli anni 60, vengono riscoperte e valorizzate. E lì però stanno le scaturigini del radicalismo americano, di un'altra maniera possibile di vivere, ed è estremamente importante che nel momento in cui si ricompone soggettivamente la vita almeno di una parte del popolo americano, queste cose continuino a riproporsi e a ritornare all'attenzione, così come un altro passaggio fondamentale è quello delle lotte nei primi anni del secolo, quando attraverso gli AWW, non solo loro ma soprattutto attraverso loro, viene superata nella pratica la questione razziale, per cui il primo esempio di organizzazione di lotta che non fa distinzioni né di sesso né di lingua né di razza, e in una situazione in cui tante altre separazioni vanno a cadere. Sono gli anni dell'attivismo delle donne, sono gli anni della nuova cultura, un corso che la prima guerra mondiale soffocherà, per poi portare appunto a quella che di fatto fu la versione americana del fascismo, perché gli anni 20 negli Stati Uniti sono a tutti gli effetti qualificabili come fascismo, e questo è il motivo per cui i giovani inquieti scappano dagli Stati Uniti e vengono in Europa, vanno a Parigi, vanno a Berlino, e questa esperienza poi verrà recuperata nel secondo dopoguerra dai Beat, no? E quindi tutta una serie di giochi di rimandi nel positivo e nel negativo, che fanno sì che non si debba avere l'occhio solo sui movimenti del capitale, dello Stato, ma continuamente avere uno sguardo strabico che prende sì, dentro. Anche perché diciamo che ci sono degli esempi, gli Stati Uniti sono stati un esempio in negativo per tantissime cose, e anche poi automaticamente però delle risposte che sono servite ai movimenti, no, di tutto il mondo, di lotta di tutto il mondo, per cui voglio dire, il fatto che anche le cose eclatanti, la giornata del primo maggio arriva da lì, no? Un sacco di cose. Il fascismo negli Stati Uniti non è mai stato il fascismo come l'abbiamo conosciuto noi, per un semplice motivo, che il capitalismo americano non avrebbe sopportato un'ingerenza così pesante da parte dello Stato nei suoi affari, ma per il resto erano dei grandi ammiratori del fascismo, e soprattutto del modo che aveva il nazifascismo di risolvere anche le pratiche sociali di lotta e di repressione, no? Per cui queste cose in effetti, e io sono convinto che ancora, soprattutto ora che siamo in una fase vogliamo dire di stanca a livello europeo come pratiche di resistenza e come così, idee brillanti che faticano a venire fuori, e probabilmente potremo guardare ancora agli Stati Uniti anche per lo sviluppo di lotte future sicuramente. E qualcuno... Se no, dico un'ultimissima cosa: la volta prossima mi fate ascoltare Harama Valley di Woody Guthrie. l'inno del battaglione Lincoln dei volontari americani nella guerra di Spagna, e anche lì c'è una ricorrenza, lo cito perché hai detto dell'accusa di avere raccolto soldi per... E non a caso Ronald Reagan parla dell'esperienza del battaglione Lincoln come dell'unico capitolo infame della storia militare degli Stati Uniti. E perché? Perché combattevano per una causa non dello Stato americano, e perché alla testa del battaglione Lincoln c'era un nero. Esatto. Grave colpa. Va bene, se non ci sono altre parole, vediamo il video, che davvero chiude in un senso aperto sul futuro questa vicenda. Grazie a tutti, grazie soprattutto. Grazie veramente a tutti voi. Agli scappati, scappate ma tornate. Thank you. keep on talking, keep on talking, walking down the freedom land. Yeah! Better on the button down? I do love doing it on the button down. I love that. There's some pins. Yeah, I mean, that's what it said on the sheet. Thank you. covered pretty much everything we're going to do. Pick a group, pick a color. Thank you. Which side are you on?